La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Un saluto e ben ritrovati qui nello spazio cinematografico di Radio 24. Franco D'Assisi in studio alla Rosa Purpurea per raccontarvi nella prossima ora tutto quel che c'è da sapere sui nuovi film in uscita nei cinema italiani e anche sugli eventi del cinema. Fra poco parleremo proprio del Festival di Berlino che si chiude fra ormai pochi minuti. Nella serata di oggi saranno resi noti i premi della Berlinale, per cui rimanete poi all'ascolto del GR24 per sapere come è andato a finire il primo grande festival della stagione. Per quanto riguarda le uscite in sala, è una settimana con due film che possono avere un grosso impatto di pubblico: Il curioso caso di Benjamin Button, lanciatissimo verso gli Oscar, 13 nomination con Brad Pitt e Kate Blanchett, e Piccolo grande amore, la novelization potremmo dire di una celebre canzone che fu anche un concept album ante litteram di Claudio Baglioni, che ha fatto cantare e sognare i ragazzini di 30 anni fa e che diventa adesso film, perché in fondo i ragazzini sono sempre gli stessi, non sono cambiati poi così tanto. Insieme a questa coppia di blockbuster arriva un solido horror che è un remake, Venerdì 13, e un paio di film d'autore, uno che si intitola Cutting ed è un film su una strage e su una tragedia poco conosciuta e poco frequentata dal cinema, quella degli ufficiali di un'intera classe dirigente della Polonia massacrati dai sovietici durante la Seconda Guerra Mondiale, e un altro film invece, Il primo respiro, che racconta un po' l'epopea della nascita, del momento della nascita, un po' in giro per il mondo. E allora giocheremo insieme ovviamente con il DVD Game, avremo la possibilità di sentire le recensioni sulle novità in DVD e le nostre rubriche, ma dicevamo, cominciamo subito con il nostro audio sommario. Alle 4:45 del mattino sveglia. Ci fanno scendere dalle carrozze di prigionia. Dobbiamo andare da qualche parte in auto. E poi? Tu non sembri una persona anziana. Non lo sono. Benjamin! Dove vai? Vado per mare. Ti manderò una cartolina. Mandami una cartolina da ogni posto. Daisy, sono io, Benjamin. Oh mio Dio. Ma perché manifestate? Manifestiamo per un mondo più giusto, un mondo pieno di colori. Se dai il numero così a un ragazzo, quello sai che penso? Infatti non l'ho mai fatto prima. Allora ti piaccio. Sei matto. Sapevi che un bambino è annegato qui? Non era un bravo nuotatore. I sorveglianti non sono stati attenti. Doveva essere controllato ogni istante. Lo sai, era mio figlio. Si chiamava Jason. Questi quindi i film in uscita nelle sale cinematografiche italiane, ora la parentesi dedicata al Festival di Berlino. Per fare il punto, per cercare di tirare le somme sul primo grande festival del mondo nella stagione, c'è con noi al telefono il collega Boris Sollazzo, che saluto. Ciao Boris. Ciao Franco. Siamo allora, un po' freddo ma ci divertiamo molto. Ecco, benissimo, benissimo. Allora, 10 giorni di cinema a Berlino, pare che il tema ancora una volta sul quale il cinema, e quindi forse l'umanità, se il cinema è specchio dell'umanità, si sta interrogando, è quello della guerra, anzi delle guerre che ancora una volta ci circondano. Assolutamente sì, forse i due argomenti più importanti di questa edizione sono la guerra e l'immigrazione, e da qui forse vengono i titoli più belli. Direi, se vogliamo proprio citarne due, sono The Messenger di Oren Moverman, molti lo conoscono per essere stato lo sceneggiatore di I'm Not There, che parla di questa cosa molto curiosa, molto dolorosa, di due soldati che per motivi diversi sono costretti a dare la notizia delle morti dei soldati americani alle famiglie. Invece dall'altra parte c'è un film quasi italiano, perché Welcome, con Vincent Lindon e Filippo Re, racconta il dramma di Calais e di un ragazzo iracheno che vuole attraversare la Manica a nuoto per raggiungere il suo amore e per una vita migliore, perché è un po' italiano, perché è già stato comprato da Teodora. Grandissimo Vincent Lindon, e qui c'è Iraq e c'è immigrazione, forse i due chiodi fissi di questa edizione di Berlino. La novità è sicuramente il modo in cui viene posto. Sostanzialmente c'è la ricerca di vedere questo argomento, che ormai è stato sviscerato da angolazioni che fino adesso erano state oscurate, quindi i due soldati che non sparano un colpo di pistola, ma anzi sono costretti a essere messaggeri di morte, ma anche per esempio il film di Rachid Bouchareb, London River è la storia di due genitori completamente diversi, lui nero e arabo, lei bianca e protestante, che non si capiscono ma si trovano ad essere vicini perché i loro due figli stavano insieme a loro insaputa e muoiono il 7 luglio del 2005 nel drammatico attentato a Londra. Quindi c'è la ricerca di andarsi a cercare persone diverse, persone inconsuete per questo scenario della guerra, forse perché si è capito che non è tanto il colpo che viene sparato dalla pistola, ma il colpo che viene dato alla società civile sia da una parte che dall'altra. Quindi si cerca di pensare e non più di sparare. E grazie allora a Boris Sollazzo. Noi abbiamo registrato anche una intervista con un personaggio, per una volta non strettamente, anzi per nulla, appartenente al mondo del cinema, ma che c'entra e con Berlino e con il cinema, almeno in questo caso. Si tratta di Carlo Petrini, presidente e fondatore del movimento Slow Food, il movimento che ha cambiato radicalmente negli ultimi anni il modo di vivere e di vedere non solo l'alimentazione, il cibo, ma proprio lo stile di vita di milioni di persone in tutto il mondo. Carlo Petrini perché? Perché a Berlino è stata mostrata anche l'opera Terra Madre con la firma di un grande del cinema mondiale come Ermanno Olmi, che è un racconto, un documentario su un movimento creato proprio in seno al Salone del Gusto di Torino, ormai da un paio di edizioni, un movimento di contadini di tutto il mondo che si scambiano i saperi, le tradizioni, i modi di fare, i modi di agire, per non perderli, ed è un movimento di rete dal basso davvero straordinario. A questo movimento Terra Madre è dedicato appunto questo documentario di Ermanno Olmi, ideato insieme proprio a Carlo Petrini, che ascoltiamo qui alla Rosa Purpurea. La prima cosa che ti chiedo, Presidente, è il tuo rapporto col cinema. Io ho un rapporto amatoriale con il cinema. Questa avventura con Ermanno Olmi, che del mondo contadino è sempre stato un sensibile interprete, no? Olmi è venuto all'edizione del 2006 con uno scopo di coordinare un gruppo di giovani che documentassero Terra Madre, e si è innamorato di questo progetto e due anni dopo ha prodotto questo documentario, film straordinario. Lui, vedendo questa umanità, ha voluto approfondire ulteriormente il mondo della produzione agricola, del rispetto della natura, e quindi ci ha messo quel taglio poetico che contraddistingue la sua mano, insomma, ecco. La Rosa Purpurea. E dopo il doveroso spazio dedicato al Festival di Berlino, la Rosa Purpura entra nel vivo delle proposte cinematografiche di questo fine settimana. Come abbiamo detto, proprio da Berlino è stata lanciata un po' anche la volata Oscar, e a proposito di Oscar, un film che ha collezionato 13 nomination e che potrà sicuramente recitare la parte del leone negli Oscar è il curioso caso di Benjamin Button, che arriva nelle nostre sale. Mi chiamo Benjamin Button e sono nato in circostanze singolari. È una notte di festa a New Orleans, quella in cui nasce Benjamin Button. Proprio quel giorno è finita la Prima Guerra Mondiale. Nessun festeggiamento però in casa Button. La madre del piccolo muore dandolo alla luce, il padre, dopo averlo visto, lo rifiuta. Il piccolo Benjamin, che ancora non porta questo nome, è, diciamo, uno scherzo della natura. Con parole più dure lo si potrebbe definire un mostro. Appena nato, ha infatti l'aspetto esteriore di un uomo molto vecchio. Il padre lo abbandona davanti a una casa di riposo dove la precoce artrite del piccolo ben si confonde con gli acciacchi degli altri pensionanti. Si prende cura di lui una saggia donna di colore che gestisce l'ospizio, Taraji P. Henson, candidata all'Oscar, una delle 13 nomination del film, insieme a quella del protagonista Brad Pitt. Santo cielo, assomiglia tutto al mio ex marito. Mentre tutti invecchiavano, io diventavo sempre più giovane. Un vecchio, questo è dunque all'inizio Benjamin, ma pian piano cambia e con lo scorrere degli anni diventa a sorpresa più giovane. Un cambiamento graduale nel fisico, non nel carattere o nella personalità, formatasi con la lentezza e la saggezza degli anziani. Una vita vissuta appieno con la storia, sempre presente sullo sfondo come in Forrest Gump, ma un po' più in lontananza. La storia di un diverso che comprende la sua diversità e che a lungo, per questo, resta solo, ma che ha un grande amore. Il cuore del film è infatti la storia fra Benjamin e Daisy, Kate Blanchett. I due si conoscono quando lui è un bimbo con l'aspetto di un settantenne e lei è davvero una bambina. Si inseguono per anni, si incrociano a metà strada e poi riprendono ciascuno la propria via. Tu non sembri una persona anziana. Non lo so. Dove vai? Vado per mare. Ti manderò una cartolina. Mandami una cartolina da ogni posto. Daisy, sono io, Benjamin. Oh mio Dio. La vita sarebbe infinitamente più felice se si potesse nascere a 80 anni e gradualmente raggiungere i 18. Lo diceva Mark Twain e Francis Scott Fitzgerald ne ha fatto un racconto e da qui la sceneggiatura di questa pellicola, per anni rimasta in un cassetto perché sembrava impossibile da realizzare. E il film è prima di tutto un miracolo di tecnologia e trucco. Per i primi 50 minuti circa non sembra che si veda nulla di Brad Pitt. L'attore non è in scena, infatti, vengono utilizzati attori più bassi che prestano il loro fisico al personaggio fra gli 80 e i 55, ma gli occhi sono i suoi, sono proprio quelli di Brad Pitt, che ha recitato la propria parte in studio con uno speciale cerone in faccia e ha fornito così le espressioni per il volto tridimensionale poi sostituito a quello degli attori con cui erano state girate le scene. Sua invece la voce in tutte le fasi del film, e questa è forse la grande, vera prova d'attore in questo caso per Brad Pitt, e pare davvero di vedere il giovane Brad di Vi presento Joe Black o Vento di passioni nelle scene del film in cui torna ventenne. Non sai mai cosa c'è in serbo per te. Abbiamo quasi la stessa età adesso. Ci incrociamo a metà strada. Stavo pensando che nella vita niente dura e che questo è un gran peccato. Il cinema è artificio e questo melodramma con tocchi fantastici lo mostra in pieno. Ci sono una patinatura hollywoodiana da film con molti mezzi e una lunghezza notevole, forse anche un po' esagerata, 2 ore e 45 minuti. Ma David Fincher, già regista di Seven e Zodiac, racconta sentimenti, l'amore, la morte, la transitorietà della vita, compresa l'attualità ambientata nella New Orleans colpita dall'uragano Katrina, in cui Daisy passa le sue ultime ore di vita in ospedale con la figlia che legge il diario di Benjamin. Fato e predestinazione, dunque. La pellicola, però, insegna alla fine che la nostra vita è determinata dalle opportunità, perfino da quelle che non cogliamo, e che comunque le lancette non si possono portare indietro al momento in cui eravamo felici. Benjamin Button è uno di quei personaggi che possono segnare a fondo la carriera di un attore. Brad Pitt lo affronta con maturità, conscio del mistero che si cela in questo vecchio che diventa giovane. Sentiamo l'attore. This idea of that the body will go and that. Quest'idea del corpo che ringiovanisce, delle amicizie che non durano, degli amori a cui devi dire addio. Questo era il fattore interessante per me. Il personaggio di Benjamin è incentrato sulla sua capacità di ricevere dalla gente che incontra lungo il suo cammino. Loro hanno la fissazione della performance, mentre Benjamin ha la fissazione di prendere tutto quello che può dal loro modo di essere. Descriviamo la sua vita come una lunga danza, nella quale alcune persone lasciano un'impronta. Per ora Benjamin Button gli è valso una nomination all'Oscar, ma a chi lo considera favorito, Brad Pitt ricorda il grande livello della concorrenza. When I started out, my gods, so to speak, were Gary Oldman, Sean Penn. Beh, e quando ho visto che c'erano Gary Oldman, Sean Penn e Mickey Rourke, per me è stato un grande onore pensare di essere seduto allo stesso tavolo e menzionato come questi grandissimi attori. E da allora Richard Jenkins è diventato un grande amico e un attore che ammiro molto, così anche Frank Langella. Sarà anche una questione frivola, ma è sempre bello quando esce il tuo nome. E allora, in attesa di occuparci nuovamente del curioso caso di Benjamin Button e di Brad Pitt, probabilmente nella notte degli Oscar, noi andiamo ad aprire la prima finestra sulla DVD Game di questa settimana. È andato molto bene il quiz della scorsa, fra poco con Claudio Pofi sveleremo i vincitori di quel quiz e dei DVD allegati. Oggi un altro capolavoro a disposizione dei nostri ascoltatori, ascoltiamo la prima traccia. Perché non levitiamo sopra il driving range e spediamo qualche pallina virtuale nello spazio? No, già fatto ieri, non me lo chiedere nemmeno. Beh, che facciamo? Dillo tu. Non lo so. Qualcosa. Questo è il film misterioso di oggi. Se avete indovinato di che film si tratta, l'indirizzo di posta elettronica in cui scrivere la risposta è larosapurpurea@radio24.it. Più tardi, altre due possibilità. Proseguiamo con le novità nei cinema italiani. Dicevamo in apertura, non solo cinema di grande presa popolare, ma anche cinema d'autore e di riflessione, quello che propone Andrzej Wajda, un grande maestro del cinema polacco ed europeo, del cinema d'autore in generale. Ricordiamo il suo capolavoro D'Anton, ma non è stato senz'altro l'unico, che proprio l'anno scorso a Berlino presentò questo film che si intitola Katyn o Katyn, dal nome della località nella quale venne perpetrato uno dei più grandi eccidi, sconosciuti o misconosciuti, ai più almeno, della Seconda Guerra Mondiale, ovvero il rastrellamento, la deportazione e poi il massacro sistematico di tutta una classe di giovani ufficiali, aristocratici, una classe dirigente intera di un paese come la Polonia, che venne così sterminata e assoggettata al comunismo reale. E allora di questa storia, di questa drammatica storia, si è occupato il maestro Andrzej Wajda. Katyn, raccontato qui alla Rosa Purpurea da Chiara Pizzimenti. Da questa parte ci sono i tedeschi! I russi, di qua ci sono i russi! Siamo in Polonia, in piena Seconda Guerra Mondiale, e il popolo polacco è in mezzo, sospeso su un ponte, come nella prima immagine di Katyn. Qui si trova anche la giovane moglie di un ufficiale che con la figlia cerca il marito. Lo incontrerà per l'ultima volta prima che lui salga sul treno dei prigionieri verso l'Unione Sovietica. Kozelsk, 7 aprile 1940. Da due giorni hanno cominciato a trasferirci. Dove e per quale motivo non si sa. E così l'ufficiale racconta in un diario quanto accade a lui e agli altri prigionieri sospesi nell'incertezza. 20.000 ufficiali educati e addestrati non sono rimpiazzabili, si dicono i polacchi, convinti di andare a combattere contro i tedeschi. In realtà non ci arriveranno mai. Mi hanno tolto la cintura, mi hanno preso l'orologio che segnava le 8.30, 6.30 ora polacca. Che ne sarà di noi? Furono uccisi insieme a migliaia di altri prigionieri nella primavera del 40, a Katyn appunto, una strage che si scoprì solo nel 43 e di cui i russi incolparono i tedeschi. Solo nell'89 fu fatta luce sulla vicenda, tragedia nella tragedia, alle famiglie che attendevano in Polonia non venne mai detto nulla se non la verità di Stato che incolpava i nazisti. Mogli e madri attesero invano per anni notizie o addirittura il ritorno dei loro cari. Andrzej Wajda, grande del cinema polacco, racconta un pezzo di storia nascosta del suo paese adattando il romanzo Post Mortem di Andrzej Mularski e insieme racconta qualcosa di personale. Il film racconta la strage da due punti di vista. Katyn come crimine orribile, l'esecuzione di 22.000 ufficiali catturati dall'esercito sovietico. Katyn come menzogna. Per quasi 50 anni, fino alla fine del regime comunista, i polacchi hanno dovuto ascoltare la menzogna che il massacro fu commesso dai tedeschi. Ho scelto questo duplice punto di vista perché vittima del massacro di Katyn fu mio padre, capitano di fanteria, ucciso nel 1940 dalla milizia sovietica e seppellito in un bosco. Vittima della menzogna fu invece mia madre, che non sapendo cosa fosse successo al marito, lo aspettò fino al 1950, anno in cui lei stessa morì. Crude immagini d'epoca, come quelle della scoperta delle fosse comuni, si uniscono alla ricostruzione in un film che insegna la storia e insieme denuncia l'eliminazione dell'intera classe dirigente di un paese. Non possiamo dimenticare che questo orribile crimine fu compiuto da Stalin con lo scopo di annientare l'intelligenza polacca. La maggior parte di quegli ufficiali erano di riserva, insegnanti, professori, universitari, artisti, in breve tutta l'intelligenza polacca. La morte di quei 22.000 ufficiali spalancò a Stalin le porte per il controllo della Polonia. Droghe w przyszłości do opanowania Polski. E alleggeriamo il clima in chiusura di seconda parte con la nostra Screen Parade per capire un po' come sono andate le cose al botteghino lo scorso weekend. Per la prima volta, dopo un po' di tempo almeno, ci sono, in un periodo che non è Natale, primo e secondo due film italiani, due commedie. La vecchia, fra virgolette, perché è già in sala da tre settimane, Italians, e la nuova arrivata, Ex. Vediamo chi l'ha spuntata, ce lo racconta Daniela Faggion. Ex arriva in vetta e tutti i film in top 5 slittano di un gradino. È quinto il fantascientifico Viaggio al centro della Terra, che con altri 765.000 euro sfiora i 7 milioni complessivi. È quarto invece Revolutionary Road, altri 850.000 euro e 2 milioni e mezzo complessivi per DiCaprio e Winslet, calati nella middle class americana degli anni 50. Credevo che tu avessi rifiutato il lavoro. È solo una possibilità, ecco tutto. Più di 1.100.000 è il terzo gradino del podio per Operazione Valchiria, il complotto del colonnello Tom Cruise contro Adolf Hitler è già oltre i 3.300.000. Ciò che importa è agire, subito. Cede lo scettro Italians, che si consola portando a casa un altro 1.300.000 e sfondando il tetto degli 11 milioni dopo tre weekend in sala. Debutta al vertice Il ritorno di Fausto Brizzi. Pur rifiutato dai cinema parrocchiali, il film del regista di Notte prima degli esami si avvicina ai 3.600.000 fra risate, corna e pentimenti. Ogni divorzio inizia sempre con un matrimonio. La rosa purpurea. Una delle introduzioni più famose della storia della musica italiana. E adesso quella canzone è diventata anche un film. Avrete capito, stiamo parlando di Questo piccolo grande amore, il brano di Claudio Baglioni degli anni 70, che era anche un album, un concept album, come si usava a dire all'epoca, cioè un LP che raccontava una storia d'amore fra un ragazzo e una ragazza che si prendevano e, come spesso accade in età giovane, e mica neanche solo quella, si lasciavano o quantomeno si sorprendevano nelle braccia di un altro. Insomma, ci siamo passati tutti in quell'epoca a cavallo fra l'adolescenza e la gioventù. Ora, in piena epoca moccia, quella storia diventa un film che ricalca pari pari quella vicenda. Dopo Notte prima degli esami, un'altra canzone che viene portata sul grande schermo sembra quasi di rivivere il boom dei musicarelli degli anni 60. Questo piccolo grande amore raccontato con le interviste ai protagonisti dalla nostra Barbara Righini. Quella sua maglietta fina. Più di 35 anni dopo l'album che ha fatto sognare e ha accompagnato i primi batticuore di tante coppie, Riccardo Donna porta sul grande schermo la storia di Questo piccolo grande amore, concept album di Claudio Baglioni. Proprio lo stesso Baglioni è coautore della sceneggiatura, che segue passo a passo la storia autobiografica di un Baglioni giovanissimo e innamorato. Giulia e Andrea hanno 17 e 19 anni, si incontrano per caso durante una manifestazione. Erano i primi anni 70 e ancora non sanno che quella giornata cambierà per sempre le loro vite. Dopo quell'attimo in cui per la prima volta i loro sguardi si sono incrociati, niente sarà più come prima. Lui viene da un ambiente più modesto e di periferia, lei dalla Roma bene, ma il mondo, al cospetto di una passione così immediata e travolgente, sparirà o danzerà con loro nonostante piccoli screzi inevitabili. Va bene, mi dispiace. E di che cosa? Di avermi invitato al compleanno della tua ex fidanzata? Di trattarmi come una ragazzina? Oppure di riempirmi di chiacchiere? Di che cos'è che ti dispiace? Me lo dici? Io voglio solo stare un po' con te. Ti amo davvero, ti amo, lo giuro. Ti amo davvero. Dopo pomeriggi ebri solo l'uno dell'altra, la vita li chiama alla realtà. Arriva la temuta cartolina. Andrea deve donare alla madre patria 15 mesi della sua vita, proprio nel momento sbagliato. Vabbè, lo dovevi sapere. Niente esame, niente rinvio, si parte. E poi magari sarà un'esperienza bellissima. E intanto devo buttare 15 mesi della mia vita per imparare a sparare. Il figlio dell'amica di mia madre è partito per andare a far militare, si è ammazzato. Bravo, Sicco. Te dici sempre la cosa giusta al momento giusto. Vabbè, sì. Era depresso pure prima, però, eh. Non è che si è ammazzato proprio per quello. Sicco, fa una cosa, non parla che è meglio, va. E con Giulia che fai? Il ragazzo di mia sorella è partito per andare a far militare e lei se ne è trovato subito un altro. Eh no, Sicco, questa non vale. Sono tutta centocelle che tua sorella è un po' zoccola, no? Ammazza le palle che sei, io. Dolcissimo e leggiadro anche quando, inevitabilmente per chi conosce l'album e la vita, i due cuori innamorati tornano con i piedi per terra. Questo piccolo grande amore è il film adatto per San Valentino e che si accoppia perfettamente alle frasi che da sempre accompagnano I baci Perugina. È un film accurato, che non dimentica nessun dettaglio, il che potrebbe anche essere un pregio se questo non rendesse il tutto un po' troppo stucchevole. Azzeccato però il tentativo di rendere percepibili i sentimenti. Emanuele Bosi che interpreta Andrea. Viene rappresentato tutto, anche la parte interiore, diciamo un sentimento, no? un turbinio interiore viene rappresentato. Per esempio c'è una scena che spiega chiaramente questo di cui sto parlando, che è praticamente la scena del primo bacio, Quindi c'è uno scatenarsi di emozioni in quel momento, però la scena appunto è fatta che poi praticamente la macchina da presa si sposta e vede tutti i ballerini che ballano. Ed eccoci arrivati alla seconda finestra aperta sul DVD Game, sul nostro gioco nel quale dovete indovinare il film misterioso. Vi facciamo ascoltare un'altra traccia. Saluti e congratulazioni, comandante. Se mi state guardando vuol dire che il vostro esaminatore di vegetazione extraterrestre è tornato dalla Terra con un campione confermato di fotosintesi in corso di svolgimento. Esatto, vuol dire che è ora di tornare a casa. Se avete capito di cosa si tratta, la rosa purpurea @radio24.it è l'indirizzo giusto per provare a vincere questo DVD. Più tardi, l'ultima chance. Secondo una leggenda talmudica, quando un bambino nasce, possiede la conoscenza di tutte le vite precedenti. Un angelo appare e lo istruisce a mantenere questo segreto. Pone il dito sulle labbra del bambino che dimentica tutto. Una traccia del gesto dell'angelo rimane. È il piccolo solco tra le labbra ed il naso. Soltanto a questo punto il bambino può emettere il suo primo grido. Questa bella leggenda ebraica è il prologo del film di cui vogliamo occuparci ora, Il primo respiro, originale documentario firmato dal francese Gilles Demestre, che ci porta dentro uno dei più grandi misteri dell'esistenza, una delle due esperienze che sicuramente tutti, ma davvero tutti gli uomini condividono, ovvero la nascita. Demestre ha girato davvero in tutto il mondo per 3 anni, tribù africane e siberiane, paesi comunisti e capitalisti, alla ricerca delle modalità, delle tradizioni, delle culture che stanno prima e dopo il momento del parto. E ha ambientato queste nascite in un giorno particolare, velato di magia, il 29 marzo 2006, quando un'eclissi di sole oscurò a rotazione tutto il pianeta. Just as two breaths become... Così troviamo Cocoya, donna Masai, sposata a un poligamo con 10 mogli e 100 figli, e Sandy, ballerina di Parigi, che balla col suo pancione fino al giorno prima dell'evento, e ancora Elizabeth, nomade dei ghiacci siberiani, che vive a 50 sotto zero e va a partorire in elicottero, e Nagoya, giapponese, che decide di partorire in una grande casa tradizionale gestita dal dottor Yoshimura, 20.000 bambini all'attivo. Storie di felicità e di drammi, cucite con la narrazione di Isabella Ferrari, più o meno comprensibili coi nostri occhi occidentali, ma da leggere sempre dentro il contesto socioculturale in cui maturano. Quel che l'uomo, prima che il critico, non comprende è la messa a repentaglio della propria vita e di quella del nascituro, per uno snobistico e malinteso senso di appartenenza alla natura. È ciò che fa Vanessa, 32 anni, figlia dei fiori un po' fuori tempo, che decide di partorire senza assistenza alcuna, non nella foresta amazzonica o nella tundra, ma negli Stati Uniti d'America. Niente ostetriche né dottori, Vanessa ha deciso di fare da sé. Le donne lo hanno sempre fatto e sanno come farlo, il suo ragionamento. Infatti si moriva per parto, verrebbe da rispondere alla hippie del terzo millennio, e quando, dopo aver dato fortunatamente alla luce il bambino in una piscinetta con gli amici intorno che suonano la chitarra, per parecchie ore la placenta non viene espulsa, Vanessa non va in ospedale ma aspetta. Un comportamento censurabile che ci racconta l'egoismo delle nostre idee quando prevaricano il più elementare buonsenso, e stride invece con il buonsenso di Stato del Vietnam, dove Ho Chi Minh partorisce in ospedale perché lì il parto assistito è obbligatorio. Il critico invece, guardata con un discreto interesse l'operazione, rileva i difetti di un film troppo lungo, 99 minuti di parti per non essere noioso, e la mancanza di una presa di posizione del regista che suona un po' come una scrollata di spalle rispetto a quel che rappresenta oggi il nascere. E mettetevi gli occhiali rosa adesso, perché sta per arrivare Trailer USA, la nostra rubrica che vi porta settimanalmente le anticipazioni dai film americani con l'ascolto dei trailer originali. Rubrica che oggi dedichiamo a una commedia sull'amore, una divertente commedia sull'amore e sulle sue molteplici facce. Il titolo è una frase idiomatica, un modo di dire americano: "Is just not that into you", ovvero letteralmente "non è quello per te". Da noi in Italia uscirà con un titolo altrettanto emblematico: "La verità è che non gli piace abbastanza". Salutiamo la nostra Micaela Belisario. Ciao Micaela. Ciao Franco. Allora Micaela, cast all star notevole, il film uscirà da noi il 13 marzo, quindi ce ne occuperemo prossimamente qui alla Rosa Purpurea. Ci sono Ben Affleck, Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Jennifer Connelly, Kevin Connolly e Scarlett Johansson. Insomma, una generazione di attori e attrici che hanno molto a che fare con questo target, diciamo così, di commedia brillante e un po' metrosexual, se vogliamo dirla con il target, visto che poi gli americani coniano una categoria umana per ogni cosa e per ogni persona. Peraltro Drew Barrymore è anche produttrice di questo film. Allora, Michaela, cosa possiamo dire in più su questa commedia? Beh, Franco, il film, diciamolo subito, farà la gioia delle fan di Sex and the City, perché è tratto da romanzo omonimo, si intitola proprio così, scritto da due sceneggiatori di Sex and the City, Greg Berendt e Liz Tuccillo. Peraltro diamo un'anticipazione, un'ulteriore anticipazione in trailer USA, ci sarà presto anche il sequel di Sex and the City sul grande schermo, ma torniamo al nostro film. La trama è questa, racconta storie di vita quotidiana di alcuni personaggi di Baltimora, storie ovviamente d'amore che si intrecciano tra loro, uno innamorato di un'altra che a sua volta è innamorata di una che poi viene respinta dall'altra, eccetera. Sullo sfondo ci sono i cliché dei rapporti uomo-donna, visti dal punto di vista della donna: se lui non ti telefona significa che non gli piace abbastanza, se non ti chiede di uscire non gli piace abbastanza. Si gioca un po', insomma, su tutte queste frasi, questi comportamenti che le donne imparano molto presto a decifrare dagli ometti. Ora sentiamo proprio un passo del film in cui un uomo dice a una donna: beh, allora ti chiamerò, e tutto quello che ne consegue. So, I would love to call you sometime. Do you have a card? Of course. Oh, great. Look forward to hearing from you, Gigi. Oh, wait. Are you hearing from me or am I getting a call? We'll talk. We'll get in touch. Oh, oopsie. Come dicevamo, la verità è che non gli piace abbastanza, è un intreccio di varie storie d'amore. Così abbiamo per esempio Drew Barrymore che interpreta una donna confusa dal corteggiamento, Scarlett Johansson invece è una ragazza che non riesce a sedurre l'uomo di cui è innamorata. Adesso vi facciamo ascoltare una scena in piscina in cui si spoglia nuda davanti all'uomo dei suoi sogni senza sortire però alcun effetto. I'm married. I don't do this. So we're friends. Yeah. È un vero trionfo, insomma. Adesso lasciate, riponete i vostri occhiali rosa che vi avevamo fatto indossare per vedere meglio il colore di questa commedia. Salutiamo la nostra Michaela Bellisario. Ciao Franco, alla prossima settimana e un saluto agli ascoltatori. La rosa purpurea. Hello? Who's that? Oh, hi. What are you doing out in this mess? One. Two. You're doomed. You're all doomed. Three. Friday. The 13th. You may only see it once, but that will be enough. Friday, the 13th. E quella che vi abbiamo fatto ascoltare in apertura di questa quarta parte della Rosa Purpurea è davvero una chicca, il trailer originale americano di uno dei capolavori dell'horror di quel periodo d'oro a cavallo fra gli anni 70 e 80, in questo caso era proprio il 1980, si trattava di Venerdì 13, cominciava la saga di Jason, una saga che ritorna con un remake, l'ennesimo remake, potremmo dire, di film dell'orrore di quell'epoca. Negli ultimi anni avete visto rifatti Non aprite quella porta, La notte dei morti viventi, L'alba dei morti viventi, adesso si vocifera addirittura attorno a un remake di un capolavoro assoluto di John Carpenter come Essi vivono, e è stato firmato anche un accordo per rifare degli horror invece degli anni 50, quelli della mitica RKO, fra cui un film come Ho camminato con uno zombie, quello è addirittura degli anni 40 con la regia allora di Jacques Tourneur. Insomma, il genere horror che pure negli ultimi anni ha saputo reinventarsi, soprattutto con la scuola europea e con quella asiatica, che hanno avuto la capacità di reinventarsi reinventare lo stile, e sono stati copiati ovviamente dal cinema americano, pesca anche sempre un po' nel suo passato recente per raccontare storie che facciano spaventare. Venerdì 13 è la storia di una sorella scomparsa da parte di un ragazzo che si chiama Clay, che arriva in questo misterioso bosco del leggendario Crystal Lake, dove si imbatte prima nei resti di vecchie capanne, nonostante i consigli degli indigeni, diciamo così, della popolazione locale, di fermare la ricerca e rivolgersi alla polizia. Clay prosegue con un gruppo di ragazzi e passerà ovviamente un terribile weekend di paura. Questo è il plot, la trama, che è assolutamente identica a quella del film originale. Venerdì 13 nelle sale cinematografiche italiane. Ascoltiamo in chiusura di questa presentazione invece il trailer di questo remake. Sapevi che un bambino è annegato qui? Non era un bravo nuotatore. I sorveglianti non sono stati attenti. Oh mio Dio! Doveva essere controllato ogni istante. Lo sai, era mio figlio. Si chiamava Jason. E oggi è il suo compleanno. E con il remake di Venerdì 13 si chiude la presentazione delle novità al cinema. Ovviamente il film precedente, ovvero l'originale Venerdì 13, è disponibile anche in DVD, ma noi di DVD parliamo come sempre con il nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio! Ciao Franco, un saluto agli amici del Colto. Chissà che prima o poi non si incroci appunto anche Venerdì 13 sulle strade della nostra zona dedicata ai DVD. Noi per il momento invece, procedendo con ordine, andiamo a far ascoltare i nostri amici che ci stanno seguendo l'ultima traccia del film misterioso di oggi, che a questo punto potrebbe e dovrebbe non essere più così misterioso. Ascoltiamo. Auto, la terra è incredibile! Queste sono fattorie. Gli umani piantano semi nel terreno, ci versano sopra dell'acqua e poi cresce il cibo, tipo pizza. Buonanotte, comandante. La Rosa Purpurea @radio24.it è l'indirizzo di posta elettronica per provare a vincere questo straordinario DVD. La prossima settimana sveleremo ovviamente di che film si tratta, chi l'ha vinto e anche ascolteremo un'intervista esclusiva che abbiamo realizzato con uno dei curatori di questo fantastico lavoro. Ma insomma c'è tempo, una settimana per parlarne. Invece, tornando indietro di 7 giorni, vi facciamo riascoltare una delle tracce che avevamo seminato la settimana scorsa. Non so dove siano, non so perché siano qui e me la sono voluta. È solo colpa mia perché sono stata una stupida sgualdrinella incosciente. Parli proprio come tua madre. Non è vero. Ma sì che è vero. Sei vittima del senso di colpa dei cattolici. Hai vissuto come una suora. Già, che fine ha fatto la nostra donna? Avete indovinato in molti, si trattava di Mamma Mia, il grande musical con le canzoni degli ABBA, che ha aperto un po' la stagione cinematografica 2008-2009, grande successo, con Meryl Streep, con Pierce Brosnan, con Colin Firth, con Stellan Skarsgård, è un grandissimo cast, un film veramente pieno di gioiosità e di grande musica, di grandi colori, di mare, di sole. Certo, detto con questo tempo che ci circonda in questo periodo, non è facile da immaginare, ma insomma, Mamma Mia è davvero un musical molto azzeccato. Tra l'altro, piccolo inciso, sta per arrivare in Italia anche il musical originale, quello di teatro, con una compagnia, tra l'altro, inglese di grandissimo livello. Quindi, insomma, informatevi perché è uno spettacolo sicuramente da seguire. Claudio Pofi, il DVD sì. Di Mamma Mia. Ritroviamo sicuramente tutta la grande qualità, la cinematografia dell'opera nell'edizione DVD di Universal, assolutamente impeccabile sotto il profilo audio-video. Ci sono numerosissimi approfondimenti per scoprire gli spassosi dietro le quinte, la complessa lavorazione, perché gli attori hanno effettivamente cantato live in diretta durante le riprese. Ricordo tra l'altro che quest'opera, grazie a Universal, è disponibile anche in Blu-ray alta definizione. E quindi insomma il mare delle isole greche si vedrà meglio. Andiamo avanti con le due recensioni invece di questa settimana, rimanendo un po' a un'atmosfera musicale, anche se di segno e di generazione molto diversa. Field Noise ci porta in una scena hip hop, reggaeton, insomma vicina alla musicalità e al ballo dei più giovani e soprattutto di ambiente metropolitano. Ascoltiamo la clip. Come va? Sto pensando alla mia musica. So che non abbiamo ancora parlato di tante cose. E anche di noi. Tanto non serve. Io vorrei solo che sapessi che io ho sempre pensato a te. Il DVD è di Mediafilm, per questo film è prodotto dall'attrice e cantante Jennifer Lopez, ci racconta la storia di questo giovane artista hip hop di New York con tanta rabbia e rancore dentro, che si mette nei guai, la madre lo manda a Porto Rico, qui ritroverà le sue origini, il padre che non aveva mai visto, conoscerà il fratellastro, grande appassionato di musica, scrive e canta, forse avrà la possibilità di redimersi. La qualità del DVD è veramente notevole, abbiamo in Dolby Digital multicanale la traccia in italiano, ma disponibile anche a due canali l'originale in inglese. Come extra sono disponibili una curiosa featurette, interviste agli attori e il trailer. E per chi ama invece il genere poliziesco, quello senza troppi fronzoli, dove si spara con una certa facilità, noi abbiamo un'altra proposta, si intitola Rogue il solitario, ascoltiamo la clip. Queste sono tutte le foto che esistono del solitario, quel bastardo si rifà la faccia ogni 6 mesi. John, chiunque può usare bossoli in titanio e proiettili di U. Quelli che abbiamo trovato... Quelli che abbiamo trovato ieri sera sono identici a quelli di 3 anni fa. Ti dico che è tornato. Va bene, ma se lui lavora per la Yakuza, perché ucciderebbe gli Yakuza? Magari ha cambiato sponda, non sarebbe la prima volta. Da 01, un action thriller adrenalinico che arriva in DVD con una eccellente qualità. La storia di questo agente dell'FBI, Jack Crawford, il personaggio interpretato dallo strepitoso Jason Statham, che decide di vendicare la morte del suo compagno e dare la caccia appunto a questo killer al soldo del miglior offerente, Rogue, anche qui altro grande attore della scena internazionale, Jet Li. La qualità, come dicevo, del DVD è veramente notevole. Abbiamo, oltre alle consuete tracce in Dolby Digital multicanale, in italiano e in inglese, anche una seconda traccia in italiano assolutamente esplosiva in DTS. Come contenuti speciali, oltre a trailer, galleria fotografica, ci sono i chuck, approfondimenti sulla lavorazione, scene tagliate e interviste. Grazie allora Claudio Pofi, noi ci ritroveremo la settimana prossima ancora con Claudio a parlare di DVD. A risentirci, a presto. E si chiude questa puntata della Rosa Purpurea, appuntamento fra 7 giorni qui su Radio 24. Come sempre gli orari sono le 18 del sabato e le 9 del mattino della domenica per parlare di tutto il cinema che c'è. Avremo anche un tema forte, incombente, perché da lì a poche ore si assegneranno gli Oscar 2009. Ovviamente ne parleremo. Appuntamento quindi alla prossima settimana. Un saluto da Franco D'Assisti.